pari a tre. Voi non avete gusto, il principe mi die, mi leggo la tua festa, odio mia facoltà. Non mi compose Oh, non fatemi pregar. Il russo Menchikov riceve l'ordine di corvi in trappola nel mio palaggio. Era un esercito contro un manipolo, un contro 15. Ma come avventerà Carlo XII, nemici o soci, contar non so. I miei sacchi attano dietro ogni ostacolo, tre giorni in furia alla Gaia Musica, tre giorni in zuppola alla morte, e distante tragico, come resistere? Non c'è da scegliere tra piombo e allora. Le torce fumano, pronto è l'incendio. Ma quel vestibolo, io stesso rotolo, barril di polvere. Stringo la biccia e cento saltano, cosa cambia? Paride, il giudizio sarà.